Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Ormai nella nostra trasmissione da qualche giorno abbiamo un tema unico, stiamo scandagliando tutti i principali provvedimenti della manovra economica varata dal governo, quella che ha ottenuto la fiducia dal Parlamento tra giovedì e venerdì scorsi. Oggi, per la terza volta nel giro di 2 settimane, e forse non avremo neanche finito, dobbiamo necessariamente ritornare sulla rimodulazione dell'imposta di bollo sui dossier titoli, perché ci avete bombardato per fortuna di domande, perché proprio anche grazie a voi che riusciamo a vivacizzare al meglio le nostre trasmissioni, perché la manovra che appunto ha ottenuto la fiducia della Camera venerdì scorso ha apportato ancora modifiche al provvedimento rispetto alla formulazione iniziale. In sostanza si è introdotto un più marcato criterio di progressività sugli aumenti dell'imposta, creando anche una sorta di esclusione dall'aumento per i conti titoli di valore inferiore a 50.000 euro. Oggi comunque ritorniamo a riepilogare le novità per capire bene anche i prodotti di investimento che devono rientrare nel conto titoli e quindi incidere sulla nuova tassazione, per ritornare anche a rispondere alle domande di chi ha la tentazione di rimodulare anche i propri risparmi per evitare il nuovo balzello. E allora stamattina con noi intanto il collega di Plus 24 del Sole 24, Gianfranco Orsino. Plus si sta occupando molto attivamente di tutte queste novità. Gianfranco, ciao, bentornato. Buongiorno a tutti. E bentornato anche all'esperto che ci aveva aiutato anche nell'ultima puntata a chiarire la dinamica della rimodulazione dell'imposta di bollo, l'avvocato Fabrizio Vedana, responsabile dei servizi legali di Unione Fiduciaria S.p.A., la società fiduciaria e servizi appunto delle banche popolari. Avvocato, bentornato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci ha portato, peraltro, ci ha detto poco fa, ci ha fatto anche un po' sorridere a microfoni spenti, una circolare ABI di tantissimo tempo fa, dell'epoca praticamente del Mesozoico, diceva lui, insomma, dinosauri del 94, che già stabiliva delle cose sull'imposta di bollo, quindi ci interesserebbe anche capire molto, ce lo dirà dopo, il motivo per cui ha portato un documento tanto vecchio, visto che il governo ha deciso di comunque rimodulare e riorganizzare la materia. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Cosa fa invece oggi la borsa? La borsa stamattina era partita con un bel rialzo di circa un punto su tutti gli indici, poi a metà mattinata ci ha ripensato, gli indici del vecchio continente stavano ritornando un po' indietro, adesso si è ripreso a correre. Milano sta guadagnandosi la palma della regina d'Europa, mentre lunedì, nel lunedì nero post esame del mercato, della manovra correttiva, Milano si era guadagnata la palma invece di maglia nera. Oggi è la migliore, più 1,43% adesso sul FTSE MIB. Parigi guadagna un punto, Francoforte oggi molto più tranquilla, segna un più 0,10% appena, Londra più 0,83%, l'euro riconquista la soglia di 1,42, sul dollaro siamo tutti in attesa dell'esito del vertice di Bruxelles di domani, che dovrà dare delle risposte più o meno definitive sul salvataggio della Grecia, anche dovrà analizzare appunto, i vertici dell'Eurozona dovranno analizzare anche un eventuale piano per scongiurare l'effetto contagio, che ha avuto tutti i suoi effetti devastanti soprattutto sul mercato italiano, quello obbligazionario in particolar modo. Peraltro, visto che di mercato obbligazionario abbiamo già introdotto il termine, ricordiamo che il famigerato spread, il differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e quello tedesco, stamattina si è riportato sui 290 punti base, quindi al di sotto dei 300 punti, che era questa soglia sulla quale si era collocato appunto abbondantemente al di sopra, anzi nei giorni scorsi. A Milano corrono i titoli della galassia Fiat stamattina dopo un upgrade, un miglioramento di giudizio, anzi un giudizio positivo espresso dagli analisti di Goldman Sachs, se non mi ricordo male. Sì, Goldman Sachs in particolar modo ha espresso appunto sui titoli S.p.A. un prezzo obiettivo di 12,90 euro, non su titoli S.p.A., scusate, sui titoli Industrial. Comunque Fiat S.p.A. più 3,85, i titoli Industrial fanno più 1,66%, Exor in rialzo del 2,44%. Popolare di Milano è il miglior titolo del momento, più 4 punti, bene tutti gli altri titoli del comparto bancario, che non solo archiviano le perdite di lunedì, ma riescono anche a recuperarle, colmarle e ad andare anche oltre. Unicredit più 3,54, Intesa San Paolo più 3,43, Mediobanca più 2,64, Monte dei Paschi più 2,46%. Fanalino di coda oggi è l'Ottomatica, il titolo perde il 2,41%, segue Mediolanum meno 1,23, Luxottica meno 0,8%. Dagli Stati Uniti stanno arrivando le trimestrali, piacciono mi sembra quasi tutto il mercato, un po' meno ieri i conti di Bank of America, che sono stati inferiori alle attese, mentre sta andando bene il settore tecnologico con il gigante informatico Yahoo, che ha riportato risultati in linea con le previsioni degli analisti. Soprattutto hanno sorpreso i risultati di Apple. L'utile del gruppo è stato di oltre 7 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre considerato, e quindi insomma buone le notizie americane. L'ultima notizia di servizio che vi do, che è in edicola da oggi con il Sole 24 Ore, il manuale anticrisi, oggi prima puntata, una pagina quotidiana rivolta ad investitori e piccoli risparmiatori, oggi focus sui risparmi generati dall'innalzamento dell'età pensionabile, poi le pagine dedicate all'andamento dei mercati e gli indicatori per orientarsi fra gli alti e bassi della borsa, pagine sulle quali sono molto attivi i colleghi di Plus 24 oggi, quindi non, Gianfranco, non contenti di quelle che fate e di quelle che fate per il sabato, avete arricchito un po' le vostre giornate, come se ci mancassero anche le motivazioni per renderle dinamiche. Allora, lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo ancora una volta sulle novità relative all'imposta di bollo sui conti titoli. Confermando le previsioni della vigilia, le misure introdotte dalla manovra finanziaria fanno preoccupare, tra gli altri, anche i risparmiatori in possesso dei dossier titoli, in Italia legati a circa 10 milioni di conti correnti. Aumenta da subito, infatti, il bollo per le comunicazioni relative ai depositi titolo sopra i 50.000 euro, che dai 34 euro passa a 70 e nel 2013 aumenterà fino a 230 euro. Ancora più colpita la fascia sopra i 150.000 euro, tassata con 240 euro, che tra due anni diventeranno 780. Per i depositi superiori ai 500.000 euro, i due scalini sono rispettivamente di 680 e 1.100 euro. La versione definitiva del superbollo ha subito attirato molte critiche relative ad esempio allo squilibrio nel trattamento dei diversi scaglioni. In particolare, la fascia mediana risulta essere la più penalizzata, con un bollo in proporzione più salato rispetto a quello applicato per i depositi in assoluto più ricchi. Il risparmiatore dovrà quindi valutare, in base all'ammontare del rendimento del suo deposito, in che misura l'utile prodotto verrebbe mangiato dalla tassa, regolandosi di conseguenza. In alcuni casi ci si può ancora trovare di fronte ad un rendimento di tutto rispetto, nonostante l'incidenza del bollo. In altri, invece, l'imposta abbasserebbe la rendita, portando al minimo la convenienza del deposito. Per limitare l'incidenza del superbollo, può essere consigliabile accentrare tutti i depositi titoli posseduti. In alternativa, si possono sempre prendere in considerazione altri strumenti come fondi comuni, buoni postali, conti di deposito o polizze vita. Non solo tra gli ascoltatori di Radio 24 e i lettori del Sole 24 ci sono tantissime domande che cercano una risposta rispetto alla nuova normativa, ma vedo che c'è già un dibattito molto animato in studio tra Gianfranco Ursino e l'avvocato Vedana. Allora chiedo anche a voi, sia per il proprio ruolo di competenza ovviamente, sia attraverso il giornale sia che attraverso l'attività dell'Unione Fiduciaria, appunto, quali sono le perplessità che regnano ancora intorno a questo argomento. Gianfranco, un po' come a noi di Salvadanaio, so che siete tempestati di richieste di chiarimento da parte dei lettori del giornale. Adesso, a prescindere dal fatto che magari per importi investiti abbastanza contenuti è tutto abbastanza chiaro, ma tra chi si sta generando la maggiore preoccupazione rispetto alla rimodulazione dell'imposta di bollo? Effettivamente dalle richieste di delucidazione che arrivano in redazione sono soprattutto, diciamo, chi si è armato, diciamo, di calcolatrice alla mano per cercare di, alla luce delle nuove disposizioni che prevedono questa imposta di bollo progressiva per determinati ammontari sopra i 50.000 euro, di di vedere come fare per risparmiare anche suddividendo o accorpando in alcuni casi, no, i diversi conti titoli che hanno diverso anche le diverse banche. Certo, no? L'abbiamo detto anche l'altra volta, insomma c'è chi sta pensando di razionalizzare effettivamente il proprio portafoglio. Anche quindi da un certo punto di vista anche su quanti conti titoli suddividere le proprie disponibilità, su quale, se farlo su più banche oppure su una sola, queste sono le domande che arrivano, e anche quella relativa anche a come bisogna calcolare queste soglie, che il nodo da sciogliere a questo punto sembra che sia soprattutto quello, perché nel testo della manovra si fa riferimento a un valore nominale dei titoli in portafoglio, un valore nominale che per alcuni titoli, anche alcune azioni quotate sulla borsa italiana per esempio, non hanno un valore nominale, e quindi come si procederà? Quindi non si terrà conto, come sembra da prima lettura del testo, del valore di carico, ecco, il prezzo a cui l'ha pagato il sottoscrittore, e neanche il valore reale di mercato al momento, no? E già questo sono i principali dubbi che bisognerà sciogliere adesso con qualche... Quindi quale sarebbe il valore nominale? Il valore nominale è quello che viene messa per esempio per un'obbligazione, no? È il classico 100, valore 100, no? Che poi naturalmente... E per un'azione? Per un'azione naturalmente quasi tutti con l'avvento dell'euro avevano portato a un euro, no? Quindi anche titoli che valgono in borsa 20 euro, il tuo valore di carico su dossier titoli per fare questo conteggio delle soglie dovrebbe essere un euro. Però attenzione, perché okay, come è successo due anni fa, mi sembra, che nell'ambito di un recepimento della normativa comunitaria è stato introdotto anche nel codice civile, nel nostro ordinamento, la possibilità di emettere azioni privi di valore nominale, come era da sempre in Germania, per esempio. Quindi a questo punto ci sono anche delle società quotate che hanno già provveduto a fare questo passaggio, quindi a rendere le proprie azioni senza un valore nominale. Avvocato Vadano, posso, mi sembra folle però questa modalità di fare il conteggio per applicare la nuova imposta di bollo. Abbastanza, ma soprattutto io direi a Gianfranco Ursino che molte azioni oggi sono sotto il nominale e quindi il cliente andrebbe a pagare un'imposta di bollo calcolato su un valore, quello nominale, che in realtà oggi è più alto del valore di borsa dell'azione. Infatti, chi deve fare chiarezza su questi punti che avete appena indicato? L'ABI oppure l'Agenzia delle Entrate? Chi? O il Ministero, anche il Ministero con infatti delle disposizioni tecniche che dovrebbero portare delucidazioni. Ho l'idea che ci divertiremo molto da qui a dicembre con voi due, ma anche con tanti altri colleghi. Quindi questo è uno degli aspetti da chiarire. Tra l'altro anche tra intermediari, le banche, i consulenti c'è ancora molta confusione. Lo stesso Marco Lo Conte, collega di Plus 24, ha fatto un bel giro di telefonate nei giorni scorsi per il giornale e poi ha scritto questo pezzo che era pubblicato ieri dal quotidiano Il Bancario, interprete casuale del bollo. Avvocato Vedana, perché effettivamente anche dietro allo sportello in questo momento è molto difficile dare delle risposte chiare ai risparmiatori. È così, le domande che ci stanno arrivando sono le più disparate. Andiamo dal cliente che chiede cosa devo fare se ho la classica cointestazione marito e moglie, chi paga, la paga solo uno, la pagano entrambi. Domande più complesse tipo ho fatto lo scudo fiscale, ho il deposito titoli aperto all'estero tramite la fiduciaria, devo pagare le imposte anche su quello. Oppure grazie per avermi fatto riportare dall'estero grazie tutti i miei risparmi. Assolutamente. Esatto, mi daranno anche queste considerazioni. E poi che cos'altro? Il tema molto delicato del da quando si applica la nuova imposta. Ah, ecco, per esempio, risolviamolo subito questo problema. Qui la norma parla chiaro. 6 luglio. C'è una deroga allo statuto del contribuente espressamente prevista nella legge approvata dal Parlamento. Per cui praticamente le norme dal primo gennaio non favorevoli 2011. Ai risparmiatori non dovrebbero essere progressive. Dal primo gennaio? Dal primo gennaio. Su questo iniziamo un attimo a confrontarci, perché a una prima lettura dell'ultima versione. Nemmeno la pubblicazione. Fa riferimento al decreto? Facciamo troppa confusione, lo so. Sto anche zita qui in diretta. No, e parla del primo luglio, mentre il primo testo della manovra è stato varato il 6 luglio, quindi dalla pubblicazione 78. Era entrato in vigore essendo un decreto legge. Dopodiché nella nuova versione, questo qui ci stiamo un attimo confrontando su alcuni passaggi, fa riferimento a come quello dell'entrata in vigore dell'applicazione dell'imposta di bollo secondo una lettura che ho dato io il primo luglio. Adesso avvocato sentiamo Vedana, l'avvocato che l'articolo 23 della manovra economica, comma 6, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2212, che è lo statuto, il famigerato statuto del contribuente, le disposizioni del presente articolo, è l'articolo che parla dell'imposta di bollo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Diciamo che la leggerei, confrontandomi anche con altri, l'avremmo letta come l'applicazione della disposizione, quindi con valenza dall'anno fiscale 2011 e quindi probabilmente retroattiva, altrimenti non si spiega perché avrebbero espressamente detto in deroga all'articolo 3 dello statuto. Non si è sollevato ancora nessuno su questo aspetto? Beh, lo faranno, penso. Ah, ecco. Ma le banche comunque si stanno domandando in questi giorni, stanno visto chiudendo gli estratti conto del primo semestre. Esatto, se l'imposta di bollo. Quindi qualcuno rischia già di trovarsela praticamente, c'è questo scambio di carte, sentirete tanta confusione effettivamente, ma questa seconda follia che abbiamo scoperto questa mattina, perché non ritengo di poterla definire in altri modi, se appunto scatta il pagamento del nuovo scaglione d'imposta, la periodicità semestrale, qualche risparmiatore rischia appunto di vedersi un estratto conto del conto titoli arrivare a casa con subito l'applicazione della nuova tariffa, chiamiamola nuova tariffa, il balzello quindi della nuova imposta. Per esempio, se io ho un risparmio superiore di 60.000 euro, mi arriveranno subito i 70 euro in luogo dei 34,20. Presumibilmente, ecco, io non saprei altrimenti dare un significato a quel espressamente in deroga all'articolo 3 dello statuto del contribuente, che recita: le disposizioni fiscali non possono che essere applicabili per il futuro, mentre invece dicendo in deroga vuol dire si applicano anche al passato. Certo. Ma facendo riferimento adesso con sì, nel senso che poi ci confronteremo, cercheremo di portare una chiarezza. In ogni caso solleviamo un problema sul quale c'è bisogno di fare chiarezza. Fa riferimento in un passaggio anche al primo luglio. Gianfranco, sistemati il microfono, se no se lo sentono. E non vorrei quindi che il riferimento alla deroga a cui l'avvocato citava si riferisse invece al primo luglio, perché comunque si tratta di 6 giorni. Comunque sempre di andare in retroattività, certo. È che le banche... Perché le è venuto settimane? Il dubbio che si partisse il primo gennaio, quindi a parte l'utilizzo del termine deroga, ma non poteva essere proprio un riferimento al fatto che il decreto legge è stato pubblicato il 6 luglio e quindi c'era bisogno appunto per una questione anche di per permettere alle banche di lavorare sul semestre preciso, andare proprio al primo luglio? Perché le è venuto in mente il primo gennaio? Perché fa riferimento all'anno fiscale, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta. Il periodo d'imposta parte dal primo di gennaio 2011, nel caso del 2011. Poi dopo discutiamone. È evidente che è un tema di grande importanza che va chiarito subito, certo. Perché le banche in queste settimane stanno confezionando gli estratti conto relativi al primo semestre o all'ultimo trimestre, al secondo trimestre del 2011, e stanno domandandosi: ma devo chiedere al cliente? È evidente che, come suggerì già a suo tempo Abi con la famosa circolare del 96, quella dei dinosauri, ma che torna molto utile, credo che sarà importante. Fermatevi perché devo andare in pausa, stiamo già generando veramente, non vorrei anche preoccupazione fra gli ascoltatori, che non solo non guardano con grande piacere la novità che è arrivata, ma addirittura scopriamo che potrebbe partire tutto dal primo luglio. Fermiamoci per un po' di pubblicità, tra pochissimo. Allora, da dove ricominciamo? Ritorniamo sulla nuova imposta di bollo, sui dossier titoli. Abbiamo visto che la manovra che ha avuto la fiducia da parte del Parlamento venerdì scorso ha rimodulato rispetto alla formulazione iniziale l'imposta applicata ai dossier titoli. Fino ad ora valeva per tutti gli importi 34,20 euro, adesso fino al 2012 vale in misura diversa a seconda dell'importo del dossier, e dal 2013 varrà in misura ancora superiore. Non sto a ridare tutte quante le cifre, il tema sul quale ci stavamo interrogando, che ci è sembrato un pochino agghiacciante, era quello della partenza dell'applicazione della nuova imposta, perché in base a quanto stabilisce la legge si viaggerà in deroga allo statuto del contribuente, quindi potrebbe partire il tutto a partire dal primo gennaio, considerazione appunto dell'anno fiscale, come ci spiegava l'avvocato Fabrizio Vedana. Detto questo, avvocato Vedana, visto che praticamente il primo semestre è già andato e forse qualche banca ha già cominciato a distribuire l'estratto conto dei dossier titoli ai propri clienti e ai propri risparmiatori, potrebbe anche essere che questa imposta non hanno evidentemente fatto in tempo ad applicarla, la potrebbero anche richiedere più avanti. Non sarebbe la prima volta che succede, perché come scritto nella famosa circolare ABI del 96, quella che abbiamo detto, quella dei dinosauri, 96, no? Del 96, 24 giugno 96, circolare ABI, serie tributaria numero 23, che commentava la prima manovra cosetta sul super bollo o maxi bollo del 1995, la 549, che aveva introdotto sostanzialmente, la legge che aveva introdotto la nuova imposta di bollo, quella sulla quale oggi stiamo discutendo modificata, aveva previsto sostanzialmente che per rendere immediatamente influenti le novità del 95 sull'imposta di bollo, le banche erano chiamate ad applicare il maggior onere sul contribuente anche ex post, quindi mediante l'effettuazione di ufficio della riliquidazione dell'imposta giusta. Questo quindi è un precedente importante che potrebbe probabilmente, in attesa dei chiarimenti, essere utilizzato. Credo che in questo momento le banche aspetteranno. Esatto. Certo. Allora, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, ne stanno arrivando tante, io me ne rendo conto. Gianfranco, tu volevi intervenire su qualche altro aspetto? Posso dare il via libera? Anche se su questo aspetto qui mi interessava capire anche come faranno adesso, certo, naturalmente, per chi naturalmente ha già pagato per il primo trimestre, per esempio, per il primo trimestre ha già pagato, l'imposta di bollo, quindi un quarto di 34,20 praticamente, quindi sì, 8,55, quindi sono tante le cose che vanno da chiarire, quindi cerchiamo di farlo alla svelta, non come funziona di solito, che i chiarimenti arrivano. Per esempio, un ascoltatore ci scrive: mi hanno già debitato il semestre di 60 euro, saranno stati 70 euro, oltre non vedo il rimborso visto che ho meno di 50.000 euro, cosa accade ora? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Per le obbligazioni bancarie, come vengono considerate? Dice Andrea da Modena. Caro Gianfranco, visto che abbiamo sollevato anche questo vespaio nella scorsa puntata fatta con l'avvocato Vedana e con il collega Nicola Borzi, perché insomma qua c'è un po' di necessità di far chiarezza sulle interpretazioni sul trattamento delle obbligazioni. Sono nel conto titoli o no, intanto? Allora, quasi tutte le banche le inseriscono dentro il conto titoli. Questo naturalmente è per una comodità interna alla banca, anche per la gestione dei loro dispositivi informatici interni. Però naturalmente anche a leggere una circolare ABI, che parliamo in questo caso del 97, no? Dove si faceva riferimento esplicito alle obbligazioni bancarie non quotate, che non necessitavano di avere un dossier titoli aperto. Naturalmente da allora molta acqua è passata sotto i ponti, no? Parliamo del 96, 97, queste circolare ABI, tutto quanto il resto, però sono a tuttora in vigore, se non c'è stata nessun tipo di di fatto c'è un comportamento diverso delle banche, c'è chi lo fa aprire e chi non lo fa aprire. All'epoca le banche, quello sì, all'epoca le banche, le obbligazioni bancarie naturalmente erano quasi tutte non quotate, no? Oggi come oggi invece, con la MiFID e con tutto quanto gli sviluppi normativi che ci sono stati, quasi tutte le obbligazioni bancarie invece sono quotate. Ora ci sono ancora quelle che non sono quotate su nessun tipo di circuito, e quindi a quel punto, voglio dire, non c'è necessità di dematerializzare l'obbligazione e quindi di depositarla su un deposito titoli se è emessa dalla stessa banca. Dall'altra parte ci sono molte banche che le quotano solo all'interno dei propri sistemi di negoziazione interni, no? C'è ogni banca ha quasi, perlomeno le più importanti, hanno questi sistemi interni di negoziazione dove c'è una visibilità del prezzo, ma anche in quel caso è la banca stessa che si pone come unico acquirente di queste obbligazioni, certo, no? Quindi che non sono quotati né su mercati regolamentati né sugli MTF, quindi per cui non necessariamente il conto titoli deve essere aperto, quindi, anche in ecco, di questo aspetto, certo. Questo aspetto, voglio dire, visto che c'è comunque un unico interlocutore che è sempre la tua banca, naturalmente, con cui tu ti puoi riporre, certo, in acquisto, perché e in mi vendita fai aprire un per quale motivo dove devo depositare la tassa, tutto lo stesso discorso vale per i pronti conto termine. Adesso scateniamo anche gli ascoltatori, chiedo un attimino di pazienza, l'avvocato Vedana voleva precisare un altro aspetto. Sì, 16 anni fa, quando eravamo tutti un po' più giovani, Banca d'Italia uscì con un chiarimento che diceva sostanzialmente che quando la banca emette un certificato di deposito, altri titoli, io credo che si possano considerare anche le obbligazioni, in relazione ai quali è la banca che fa il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale perché ne è emittente, non è necessario, disse Banca d'Italia nel 95, avere un deposito titoli. Sarebbe bello capire se possiamo considerare ancora validi questi principi. Io penso proprio di sì. La situazione, l'emittente è sempre la banca, l'obbligazione è sempre della banca, quindi è la banca come emittente che fa questa attività. Certo, allora, se l'obbligazione è quotata in borsa, se è quotata quindi al MOT oppure al TLX o altri mercati MTF, diciamo, dove ci sono più controparti, no, che si pongono in acquisto e in vendita, a quel punto per forza di cose deve essere appoggiata. Naturalmente il consiglio è sempre di acquistare queste obbligazioni che, bancarie che sono quotate su alcuni mercati, su mercati regolamentati, perché se bisogna dismettere e uscire dall'investimento prima della scadenza, in questo caso c'è un mercato che fa il prezzo, e la domanda e l'offerta. Se invece acquisto un'obbligazione non quotata su mercati regolamentati, a quel punto l'unica mia controparte è la banca che mi fa lei il prezzo che vuole, che a quel stabilisce. Punto. Anna Maria da Pordenone, so che probabilmente le abbiamo bruciato la risposta, siamo stati chiari, lei ha obbligazioni bancarie da quello che vedo, quindi si chiedeva se dovesse pagare per il dossier titoli. Sì, esatto, perché buongiorno intanto. Buongiorno anche niente, a lei, mi scusi. Infatti io ho queste obbligazioni bancarie, in particolar modo della PNL, acquistate ancora quando la PNL si chiamava PNL soltanto. Quindi prima di BNP Paribas, sì. Oggi gruppo BNP Paribas, e infatti sono inserite nel dossier titoli. E mi domandavo se posso far pesare questa circolare 97 dell'ABI. Ma solo questi titoli, signora? Sì, dopo anche azioni, ma poca cosa. Ecco, ma avendo azioni, e questa è un po' la domanda che vi facevo, perché avendo delle azioni comunque il deposito serve, esatto, quindi cambia però poco. Però magari il fatto di metterci dentro l'obbligazione bancaria o meno può far determinare il valore del portafoglio, avvocato Vedana, quindi esatto. Comunque la domanda è pertinente lo stesso. Certo. La domanda è pertinente, come già detto da te, Deborah, la risposta credo che sia già uscita. Diciamo che se fosse ancora valido questo chiarimento, e io mi auspico che lo sia, del 95 di Banca d'Italia, presumibilmente le obbligazioni possono essere tenute in un deposito a latere che non sia deposito titoli. Certo, però essendo della BNL, no, mi viene da pensare, naturalmente qui bisogna vedere da emissione in emissione, quindi ci sono dei codici ISIN che ogni obbligazione fa riferimento, a questo punto devo pensare che la BNL si appoggia su dei mercati, le proprie obbligazioni regolamentate. E quindi è sempre lì da vedere, ecco, possiamo darle il nostro indirizzo email e mandarci i codici, signora, e darle un po' e controlliamo. Un controllo se sono quotate o meno. Te ne vuoi anche altre, non ti bastano quelle che ti arrivano, Gianfranco, ne vuoi anche i nostri gli ascoltatori. No, al vostro indirizzo. Ah beh, grazie. No, certo. Ma tanto poi la girati è la unico. Domanda, lo sai, anzi no, l'avvocato Vedana. Andiamo adesso. Ah sì, l'abbiamo introdotto prima senza dare risposta, perché probabilmente non c'è, la questione dei conti cointestati. Giuliano da Vercelli, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì. Appunto, la necessità era questa: avendo un conto cointestato con mia mamma, necessariamente i soldi sono i suoi, per difficoltà di movimento vado io a operare. Questa cifra, l'importo tale sia, è diviso su due nomi sotto il profilo legale o materialmente si vede solo il totale in fondo a destra e quindi insomma si applica l'imposta in relazione al valore che c'è contenuto, sì. E poi abbia pazienza, purtroppo devo gestire un importo limitato anche per i miei figli, per ordine del tribunale, la separazione. Sì. Materialmente c'è un colloquio fra, come posso dire, il Ministero delle Finanze e le banche che sommano lo stesso nome il totale degli importi, o ogni banca dichiara? Sono su due banche diverse questi rapporti? Questa realtà sono sulla stessa banca, ecco. Però materialmente ho anche il mio conto personale su un'altra banca, quindi anche se non è deposito titoli, non vorrei che ci fosse una somma generale che poi finisce che le fa aumentare, ovviamente. Esatto, Giuliano, la ringrazio tanto. Allora, avvocato Vedana, che tipo di chiarimenti dobbiamo dare a Giuliano, e siamo in grado di dare a Giuliano secondo la normativa? Sui cointestati, se come normalmente un deposito cointestato riceve un unico estratto conto che andrà indirizzato ad entrambi gli intestatari del conto del deposito titoli, l'imposta è una, prescinde da quello che è di competenza dell'uno o dell'altro, quindi va fatto il calcolo del saldo del conto che sia cointestato o monointestato, quindi non cambia sostanzialmente, l'imposta va pagata nei termini di legge. Per quanto riguarda invece la presenza di più depositi per conto dei figli, la norma, così come la leggiamo, parla di valore nominale di rimborso presso ciascun intermediario finanziario, quindi fa riferimento al deposito titoli, non tanto all'individuazione dell'intestatario. Quindi il fatto che gestisca un deposito titoli per conto di uno o più figli, al più può aprire a questo punto un cointestato, e allora ne pagherà soltanto uno di imposta di bollo, perché lui è l'intestatario del conto per conto dei figli. Di solito si aprono le cosette sottorubriche sulle quali finiscono i titoli di pertinenza dei singoli minori. Se uno ha più conti correnti, che ne approfitto per fare un'ultima conti domanda, titoli, quindi, o conti correnti, se ha più conti correnti, naturalmente può per esempio, avendo lui l'intestazione, come nel caso del lettore, sia quello dei figli che quello della madre, avere a questo punto un unico deposito titoli con tre sottodepositi, ecco, il suo, dei figli e della, e della madre, in maniera tale da pagarne solo uno, anche se, se poi si appoggiano su più conti correnti? Non è vietato, ovviamente, stando attenti alle pratiche abusive, perché se poi faccio i cosiddetti conti a grappolo, cioè dentro ci sono sottorubriche con soggetti che non sono parenti affini, ma sono amici degli amici, quindi faccio il famoso conto grappolo con 40 sottorubriche, allora non va bene. Attenzione, questo è un caso più trasparente. Questo è un caso trasparente. Attenzione, non dimentichiamoci che poi, quando ci sono le sottorubriche, cosiddetti sottodossier, possono nascere problemi in caso di morte di uno degli intestatari, perché poi dopo non è chiaro cosa è di uno e cosa dell'altro, quindi attenzione, vanno trattati. Non vorrei essere con le responsabile adesso di un ufficio titoli di una qualsiasi banca, di una qualsiasi filiale in questo momento, perché veramente staranno cercando di chiarire al meglio la normativa e dare l'interpretazione, quindi le spiegazioni più puntuali possibili a centinaia di risparmiatori. Allora, il balzello nuovo, l'imposta di bollo sui conti titoli, tutte le novità, gli aumenti che arriveranno, ma c'è anche qualche buona notizia andando a scandagliare la misura. Avvocato Vedana, chi la scampa dall'applicazione appunto degli aumenti? La scampano in pochi, le onlus, quindi le onlus, quindi le organizzazioni non lucrative, che comunque sono tante in Italia, parecchie. Le amministrazioni dello Stato, non i comuni o le province, le amministrazioni dello Stato, quindi i ministeri e pochi altri. I servizi di cassa e tesoreria, quindi il classico rapporto che la banca ha con il comune per la gestione della cosiddetta tesoreria di comune. Chi altro probabilmente la scampa, però questo con un punto interrogativo, probabilmente anche quelli che hanno in banca una gestione patrimoniale, questo sarebbe molto importante, nella misura in cui la gestione patrimoniale è legata ad un conto corrente sul quale già c'è un estratto conto e quindi sul quale già c'è un'imposta. Anche perché in genere la gestione patrimoniale comunque significa gestire dei patrimoni di considerevole entità, per quale motivo dovrebbero scamparla? Non è equo, secondo me. Però non è un deposito a custodia d'amministrazione, è una gestione patrimoniale. È proprio come dire legislativamente parlando qualcosa di... I titoli sono dentro la gestione, non sono dentro il dossier titoli e quindi... Per movimentarli comunque hai bisogno del gestore che lo faccia, non sei tu direttamente che puoi dare disposizione alla banca. E quindi ecco lì, tutte quei siti che ci poniamo noi per il momento, immagino gli ascoltatori, mamma mia, tra l'altro, è veramente necessario che qualcuno intervenga a dare il prima possibile queste. Allora, poi tra l'altro abbiamo esaurito la lista, avvocato Vedana, di chi non ha, si vedrà l'applicazione degli aumenti dell'imposta di bollo. I depositi a risparmio. I depositi a risparmio non sarebbero toccati dalla nuova imposta. Quindi, per esempio, non lo so, se faccio sentire la domanda di Luisella d'Alessandria, sentiamo se può essere contemplata nell'ambito di questa categoria. Luisella, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno e grazie, buongiorno a tutti. Allora, avendo una cifra disponibile, avevo intenzione di prendere buoni fruttiferi postali. Rientrano nel conto titoli? Allora, attenda lì, avvocato Vedana. Allora, riportiamoci alla vecchia circolare dell'ABI, quella del 95-96, 24 giugno 96, finanziario, sì. Che escluderebbe i buoni fruttiferi purché siano tenuti presso il soggetto che li ha emessi, quindi le poste, se li tiene alle poste, non dovrebbero essere inseriti in un deposito titoli. Usiamo il condizionale perché poi c'è un piccolo dettaglio, bisogna fare i conti con i problemi dei sistemi informatici che a volte comunque, anche se la normativa consentirebbe di non aprire il deposito titoli, rende necessario quel passaggio anche per motivi di riconciliazione. È una storia lunga, Deborah, però diciamo che sulla carta i buoni fruttiferi non dovrebbero andare in deposito. Certo, e anche lato pratico, bene o male, le poste in questi anni hanno sempre evitato, quando era possibile, di appoggiare su un deposito sul conto titoli. E questa è una verifica che abbiamo fatto come plus, effettivamente è così. Una cosa che mi sento invece a livello di mercato di suggerire alla signora, di aspettare forse le nuove emissioni, perché i tassi, no, per quanto riguarda i buoni fruttiferi, vengono in genere stabiliti dalla Cassa Depositi e Prestiti con un intervallo temporale un po' ritardato per adeguarsi a quelli che sono quelli in vigore sugli altri titoli, per esempio i titoli di Stato che in questi giorni abbiamo visto esplodere un po'. Certamente. I rendimenti sulla base dei rischi che naturalmente sono emersi sui mercati. Allora a sto punto la nuova emissione che arriverà nel mese successivo dei buoni fruttiferi che ogni mese la Cassa Depositi e Prestiti presenta, emette, quindi presenta lo sportello tramite i sportelli bancari, a sto punto dovranno riconoscere qualche rendimento in più di quelli attuali, che sono veramente miseri, che naturalmente a 20 anni non arrivi a spuntare il 3%. Quindi, in attesa che si chiarisca se sul suo prodotto di investimento prescelto si applichi la nuova imposta di bollo o meno, quantomeno gli possiamo dare un suggerimento di mercato. Ecco. Alla nostra cara Luisella che ci ha chiamato poco fa. Allora, che cosa facciamo adesso? Ah, ecco, chi ha la tentazione di individuare delle misure per poter evitare l'applicazione del balzello. Sentiamo un po' cosa si è inventato nella sua così testa Riccardo da Milano. Riccardo, buongiorno, non volevo essere maleducata con lei naturalmente. Non c'è problema, buongiorno a tutti. Niente, una semplice domanda. Se dopo l'applicazione di questa imposta mi conviene, avendo un deposito titoli formato da azioni e obbligazioni bancarie dell'Intesa San Paolo vicino su poco superiore ai 150.000 euro, mi conviene a questo punto farne due da 75, addirittura magari tre da 50 o poco meno a testa? Beh, intanto avrà già fatto i conti, no, su come si abbatterebbe eventualmente addosso la nuova norma. Allora, intanto, avendo un conto titoli superiore a 150.000, praticamente le nuove misure portano l'aumento dell'imposta sulle conto del nostro ascoltatore a 240 euro dei 34,20 attuali fino al 2012. Dal 2013 diventa un secco 780, spezzettando... Non lo so, quanti hanno la tentazione di fare un'operazione di questo tipo, Gianfranco? No, effettivamente ci sono, no? Quindi calcolatrice alla mano, la possibilità di andare un po' verso il risparmio in questo senso, no? Quindi di calcolare, visto che su 150.000, come diceva il lettore, mi applicano un'imposta subito, diciamo, del 240 euro, che poi passerà nel 2013 a 780 euro, quindi passando invece su due depositi di 75.000 euro, effettivamente i 230, per esempio, facciamo esempio più banale per farci capire da tutti, che si applicano sulle soglie da 50.000 a 150.000 dal 2013 in poi, significa che diventa 6,90 praticamente. Diventa 6,90, ecco. Non i 780 sopra i 150.000. Esatto. Io voglio però prestare attenzione, ma che si pagano anche le commissioni sui depositi titoli, che le banche chiedono cifre naturalmente che variano da individuo a individuo, da tipologia di conto, tutto, dall'offerta complessiva che viene fatta, che arrivano anche a superare i 100 euro come se nulla fosse. Quindi attenzione a considerare anche questo aspetto. Primo, in più la banca o banche diverse? Esatto, perché se lui, ma non è che lui può aprire tre conti titoli nella medesima banca, perché poi può farlo. Ma il calcolo dell'imposta finale non viene considerato sul rapporto con la banca, ecco, quindi lui pagherebbe comunque i 780 su ogni singolo deposito. Ad ogni buon conto, io fossi l'ascoltatore valuterei anche altri piccoli dettagli. Uno, avere più depositi titoli significa doversi poi mettere a fare i calcoli ai fini del capital gain. Ho una plus uno e una minus sull'altra. Uno. Due, attenzione che ogni nuovo deposito titoli presso una banca va a finire in anagrafe dei conti, cioè il famoso cervellone dell'Agenzia delle Entrate, che è un'indicazione, e ogni nuovo deposito è un'indicazione presuntiva di ricchezza. Quindi avere tre depositi titoli, così come magari ti fa scattare un altro tipo di problema, ecco. Quindi, oppure necessità di accertamento, che magari non porta a nulla, porta sicuramente a stabilire che viene fatto tutto correttamente, però una rottura di scatole, parliamoci chiaramente. Attenzione, perché sicuramente il lettore faceva riferimento a quello che lui si vede oggi come oggi valorizzato il suo investimento su deposito titoli ai prezzi di mercato di questi titoli che ha in portafoglio. Questi 150.000 e più che diceva sicuramente sono in base agli investimenti, alla valorizzazione degli investimenti quotidiana che viene fatta sul suo deposito titoli, ma come dicevamo prima, la legge fa riferimento a sto benedetto valore nominale, che ancora, le ripeto, non c'è chiarezza su cosa, su alcuni titoli considerare come valore nominale ai fini di questo calcolo, di queste benedette soglie. Quindi, è folle, questa è veramente la parte più folle che non avevo capito della nuova normativa. Allora, due minuti di tempo, Alessandro da Livorno. Alessandro, rapidissimo, grazie tanto per ancora chiarire tutti i prodotti di investimento che finiscono nel dossier titoli, che quindi possono essere soggetti agli aumenti della nuova tassazione. Alessandro, rapidissimo. Sì, buongiorno. Volevo informazione, come vengono trattate le operazioni pronti conto termine nell'ambito della nuova legge sul bollo? Grazie Alessandro, ci eravamo arrivati anche prima, rapidamente Gianfranco Ursino. Niente, io dico solo questo, che poi su Plus 24 di sabato farò vedere quali sono le banche che richiedono l'apertura di un deposito titoli per i pronti conto termine e le banche che non lo fanno. Quindi il fatto che ci siano alcune entità bancarie che vanno in una direzione e altre nell'altra significa che c'è la possibilità di non aprirlo. Poi io dico dico sempre, visto che si tratta di avere un contratto, oppure come si dice sono due contratti, perché nel secondo termine tu dai dei soldi in prestito alla banca in cambio di avere dei titoli per un determinato periodo di tempo, no? Che poi tu devi riconsegnare alla banca, che si impegna a riacquistarli, ok? Naturalmente riconoscendoti un rendimento, no? Nel prezzo di riacquisto. A sto punto io mi chiedo, la banca, se io vado, visto che quel titolo in quella fase in cui dura il contratto è nella mia disponibilità, ok, se provo a dare una disposizione di vendita per poi riacquistarlo, no? Mm-hmm. Prima di doverlo riconsegnare, lo fa vendere, riacquistare? Secondo mm-hmm. me nessuna banca lo fa. Quindi c'è una questione anche che dal punto di vista legale mm-hmm. Ci sono stati anche in passato determinati pronunciamenti che vanno in una direzione piuttosto e nell'altra. Che in un'altra. Allora, la trasmissione sta terminando, ci mancano 20 secondi di tempo. Faccio io la domanda che avrebbe fatto Maria Teresa da Milano: il bollo si paga anche per i fondi di investimento? Abbiamo detto di no l'altra volta, avvocato Vedana, ma c'è da chiarire? No, lo confermiamo, ovviamente mm-hmm. valgono i discorsi che ha anzi fatto Gianfranco Ursino, e cioè che però alcune banche, per una serie di motivi, non perché vogliano frodare un'imposta al cliente, ma semplicemente perché hanno esigenze informatiche o di riconciliazione, fanno comunque aprire il deposito. Aggiungo velocemente che anche sulle SICAV estere, quindi i fondi comuni di diritto estero, non è dovuto. Non è dovuta, esattamente, anche se poi appunto c'è una interpretazione differente da parte degli intermediari. Grazie all'avvocato Fabrizio Vedana e al nostro Gianfranco Ursino. Vi rimando alle pagine di Plus 24 di sabato prossimo, ma sicuramente anche chi sa, prima di andare in ferie, un'altra trasmissione fatta appunto con i nostri amici che ci spiegano così bene tutto quello che sta cambiando. Intanto a tutti buona giornata domani.